Ehi, ehi. C'è poco da scherzare qua. Benvenuti. Te qua MC nel posto. Ce va a scoprire il beat. Non ti preoccupare, io sto bene, brindo alla tua, alla mia, a quello che ho vinto, a quello che ho perso, dedico il brindisi doppio. Oste, un altro giro che allento sto cappio. Una va quei giorni pieni di certezze, l'altra quei periodi stracolmi di sciocchezze. Ancora un paio sono per la vita ed il suo squarcio. Versami uno shot per l'Italia e tutto il marcio. Non ti preoccupare, fai così, non mi pensare. So che lo sai fare, non devi nemmeno sforzare. Ma se ti capita, tu fallo con cautela. I pensieri ti si appiccicano tipo ragnatela, tanto sottili da essere invisibili, ma allo stesso tempo spesso dure insostenibili. Al mattino appena sveglio pure in piena notte, sto sognando, mi lancio, ma sì, chi se ne fotte. La stabilità non so che cos'è, ho convinto la morte a bere con me. Ma ora che io no, non bevo più con la morte, se le palle bevici tu. La stabilità non so che cos'è, ho convinto la morte a bere con me. Ma ora che io no, non bevo più con la morte, se le palle vedici tu. So che se là fuori prima o poi ci incontreremo, uno sguardo, un secondo e ci riconosceremo. Tu sarai più bella che qualsiasi fantasia, io sarò il tuo re a cavallo della poesia. Cartomante, dimmi il giorno, l'ora e il posto, leggi questa mano in mezzo alle macchie d'inchiostro. Come sarà quando la mia pace arriverà e dal mio petto con le dita il battito mi ruderà. Voce, sento la voce che trema e l'emozione. Ostia, un altro giro per sciogliere il magone, lascia pure la bottiglia aperta sul bancone ed un bicchiere era vuoto per le lacrime di Decone. Intorno avevo solo cenere e ricordo, per questo a certo punto sono risorto. Io ti sto aspettando, tranquilla, non mordo, sarà questione di un secondo, tutt'altro che corto. La stabilità non so che cos'è, ho convinto la morte a bere con me. Ma ora che io no, non bevo più con la morte, se le palle bevici tu. La stabilità non so che cos'è, ho convinto la morte a bere con me. Ma ora che io no, non bevo più con la morte, se le palle bevici tu. La stabilità non so che cos'è, ho convinto la morte a bere con me. Ma ora che io no, non bevo più con la morte, se le palle bevici tu. La stabilità non so che cos'è, ho convinto la morte a bere con me. Ma ora che io no, non bevo più con la morte, se le palle bevici tu.